ma fuggendo non vivo. Io voglio, io vederti vorrei, nel bicchiere non sei, voglio luce mi dai, il buio, io vorrei pregare. Mani non so unire. C'è più fuoco, se nei miei occhi è sceso un velo. Thank you.